c'è qualcuno qua? CQDC, c'è qualcuno in ascolto? Ja, das ist gut. Ci messo su 10, voi siete al mare,